Hanno fatta finanziaria, c'avi ma sacrifica. Loro sanno accapputtate e noi mo la aiuta. So 40 finanziaria che noi ci sacrificam. E ti dico vai sicuro che non è fernuto ca. Acchiappa nonna che sta carenne, si care se fa male con qua sordo curam, ma cogia maricina.